Atteso veramente con tanto entusiasmo dopo un'estate che volge al termine esattamente in questi giorni. Nonostante ciò sono sempre molto caldi, come calda l'accoglienza al Centro di Ricerca Musicale Teatro San Leonardo. Sono con Massimo Simonini, direttore artistico per Radio Città Fujiko e per questa annata, questa stagione con Angelica. Allora, ho seguito anche un po' nel periodo estivo, che è stato certo di relax, ma sempre di continuità lavorativa, Massimo. Sì, continuità lavorativa, perché se posso dirlo, col nostro mestiere, se uno si ferma una settimana sei invaso dopo da tante cose che devi svolgere, ed è diventato anche molto difficile seguire tutto via mail, con i contatti, con le proposte musicali, con tutto quello che comporta fare questo lavoro. Cerchiamo un pochino di seguire tutto e a volte non ci riusciamo, a volte ci riusciamo, però è importante che poi arriviamo a comporre un programma grazie ai tanti curatori che anche quest'anno sono presenti. Apriamo il 30 settembre con una serata di archivio aperto con Racconto d'estate, Nena Lavello 100 anni fa, che sono una selezione di film amatoriali in formato 9,5 mm dal fondo della famiglia Lavello, e live Stefano Pilia fa le musiche di questi film, una selezione di film a cura di Michele Manzolini, musiche di Stefano Pilia nell'ambito di archivio aperto 18esima edizione. 30 settembre è l'apertura anche della nostra stagione, seppure poi abbiamo l'1 e il 7 ottobre due serate legate al bando della SIAE che abbiamo vinto. Il progetto si chiama Angelica, un nucleo per chi crea. Sono due serate a cura di Lucas Guerra, che è un musicista che aveva già suonato qua, e che vedranno due set ogni sera, quindi il 1 ottobre, che è un po' la nostra vera apertura, con Simone Grande in solo, e poi il trio Massimo Silverio, Nicolas Remondino e Vieri Cervelli Montel in trio per la prima volta, con questo nucleo che mette insieme le canzoni di Vieri insieme alla musica di tutti e tre, poi, perché contribuiscono tutti. Il 7 ottobre invece il Nicolas Remondino in solo, poi il sestetto di Lucas Guerra, poi Piccolo Coro Angelico. Non quindi, può mancare, certo. 15 anni di Piccolo Coro Angelico. Quando vado a rileggere dico: ma com'è possibile? Abbiamo fatto tutto questo. Sì, Piccolo Coro Angelico è una potenza, proprio perché è piccolo e perché è angelico. Entrambe le cose alla fine danno un'immensità. Un'immensità. Nell'ambito di Mask Fest, una coproduzione Mask, APS e Angelica, in collaborazione con il Conservatorio di Cesena e Rimini, BB, Kathy Barbarian e Luciano Berio. Tre voci femminili, Anastasia Egorova, Aurora Martini, Laura Zecchini, voce, Luca Fraternali, pianoforte, musiche, naturalmente di Kathy Barbarian e Luciano Berio, ma anche Monteverdi, Stravinsky, Beatles, Henry Parcel. Direi una serata classica e neoclassica. Che una in volta, tutti gli ambiti poi. Sì, in tutti gli ambiti, perché poi non si considera mai che una volta Berio non era un classico, ma lo è diventato. Certo. Però l'importante è che insieme a questo ci sia anche la musica veramente del presente. E la musica veramente del presente la raccontiamo in tutte le altre serate, per esempio l'1 e il 7 ottobre. Oppure abbiamo una serata che ricorda Christa Nosinger con Malacoda String Quartet, che sono in residenza, fanno anche una registrazione, sono gli ultimi quartetti d'archi scritti da Christa Nosinger. Ci sono anche un paio di canzoni in mezzo. Lui era un grande melodista, sì, e anche scrittore di testi. Poi andiamo a Tuva, nella grande pianura steppa della Mongolia. Sì, sì. Unurtu. Sai che sono, hanno già questo venuti, canto... Sì, gutturale. Sono già venuti qua, sì, 8 anni fa. 8-10 anni. Ma sembrava ieri. Vabbè. E poi proseguiamo così, il 2 novembre con il solo di Enrico Malatesta, che suona musiche di Jacob Ullman, una rarità internazionale. E poi un evento straordinario, in prima assoluta, l'opera di Rob Mazurek, perché qui parliamo di opera contemporanea. Certo. Questa non è la norma, no, non è, diciamo un altro nome consumato, la Traviata. La Traviata. La Traviata. Benissimo che le facciano, però non si dovrebbero dimenticare dell'opera contemporanea e del sostegno ai compositori, ai musicisti della musica d'oggi, anziché trattarli come secondari, come altra che cosa. La musica del presente non vale abbastanza. Quindi Immortal Birds Bright Wings, musiche di Rob Mazurek con anche video, una residenza e registrazione, 5, 6, 7, 8 novembre, concerto l'8 novembre, nell'ambito del Festival Aperto, una coproduzione tra Festival Aperto e Angelica Centro di Ricerca Musicale. È una bella collaborazione. Sì, e anche qui ci potremmo chiedere, beh, sarebbe stato bello vederlo a Bologna, ma non ci riusciamo. Attenzione, l'opera di Mazurek è con musicisti stranieri e italiani. Sì, ho letto. Con cantanti che prima erano del Conservatorio di Ferrara, che vennero qui con Mazurek ad accennare alcune canzoni. C'ero. E dissi, ma che belle queste canzoni, ma perché non lo sviluppiamo? Ecco. Elena. Sì. Poi Monofonico Orchestra, una rarità, sono le rarità di Walter Rovere, Maurizio Marsico, Massimo Mascheroni, Jan Iversen, pianoforte, sintetizzatore modulare, elettronica, effetti, campionatore, musiche di Maurizio Marsico, che era un personaggio, direi, semi-pop o quando il pop era più sperimentale. Poi Francesco Serra, in ritardo, ma mai in ritardo, presenta il suo personal, il disco uscito molto interessante per i dischi di Angelica, il 19 novembre. Poi Namkei Eshi, concerto a cura di Massimo Golfieri, che mi ha parlato di questa persona che si occupa, diciamo, di spiritualità, ma con la passione della musica. Qui in qualche modo è sconosciuto per la musica. Mi ha fatto sentire alcune cose, ha detto, Massimo, facciamo un concerto. Quindi Namkei Eshi, computer, Alessandro Di Maio, Live Electronics, a cura di Massimo Golfieri. Poi torna dopo molti anni, venne qui con Jans Joachim Rodelius, Alessandra Celletti con un classico Satie Mon Amour, ma dove presenta musiche di Satie che si alternano alle sue musiche, pianoforte, voce, con alcune canzoni di un lirismo commovente. E questo vedo in questo collaborazione col Masta. Questo è in collaborazione con Foto Industria 2025, Biennale di Fotografia. Beh, io direi che è un programma assolutamente da non perdere, interessante, sorprendente, che con la nostra emittente cercheremo di portare in maniera più esaustiva, completa e con l'entusiasmo, la passione che merita, da un lavoro di approfondimento per far conoscere sonorità assolutamente coinvolgenti. Adopero questo termine per alzare l'asticella, ma non solo, aggiungo anche per portare un aspetto spirituale, emotivo e curioso che va a dare, oltre che la qualità, anche, non dimentichiamo, una capacità di gusto molto intenso. La sede, Centro di Ricerca Musicale Teatro San Leonardo, dove siamo in questo momento, una sola piccola annotazione, che poi una precisazione, può essere una mia immagine. C'è tanti italiani in questo programma. Sì, ma questo dalla prima stagione che abbiamo fatto, e l'ho sempre detto, mentre il Festival a maggio è il culmine della programmazione di Angelica, Festival Internazionale di Musica, Angelica è subito entrata in una dimensione internazionale. È più conosciuta nel mondo che in Italia, probabilmente. La stagione, invece, si è voluta occupare più direttamente dei musicisti che diventano anche curatori dei concerti, sì, di altri, ma anche dei loro concerti. Cioè, hai un progetto, non l'ho mai sentito, ma è interessante la ricerca che stai facendo. Vieni, presenti il tuo lavoro. Ecco, avremo solo bisogno di un budget ancora più alto per poter sostenere di più i musicisti, perché non ci dobbiamo dimenticare che con tutto quello che comporta la gestione di un teatro, noi abbiamo iniziato avendo solo il budget del festival per fare dei progetti speciali ogni tanto, e abbiamo aggiunto la stagione, quindi abbiamo amplificato molto le nostre attività, pur rimanendo praticamente con lo stesso budget invariato negli ultimi 15 anni. Sono stati portati lavori al teatro? Lavori pazzeschi. A parte tutte le cose che abbiamo comprato prima di partecipare a dei bandi, il pianoforte, una parte dell'impianto audio, una parte delle luci e tutti gli arredi, questi senza bandi li abbiamo comprati noi con scomode rate, ok? Siamo riusciti a un certo punto a pagarli dopo circa 10 anni che eravamo qua, quindi anche questo ha penalizzato, certo, per certi versi l'aspetto, molto, sì. Ma poi abbiamo vinto questi bandi negli ultimi 3-4 anni, che però ci hanno svenato da un punto di vista economico, svenato perché fai un mutuo, paghi gli interessi, sì, in banca, e perché sono arrivati tutti contemporaneamente, ma abbiamo completato l'acquisto dell'impianto, abbiamo acquistato una macchina che ci fa arrivare fino al soffitto del teatro per fare determinati interventi, abbiamo finito le luci, abbiamo creato una camera acustica, Abbiamo aggiunto quella che si chiama una tripolina che dà determinati effetti di luce, lo schermo per le proiezioni video. Ho visto che... Sì, no. Backline, microfoni importanti che ne avevamo già in parte, ma adesso si può dire che siamo, rispetto alle nostre misure, cioè di uno spazio che non è il teatro comunale, ma siamo di sicuro il primo e unico spazio in Italia con queste caratteristiche che si occupa di ricerca musicale e che si pone ufficialmente, essendo uno dei teatri del comune di Bologna, c'è il teatro comunale che si occupa di musica del passato, noi ci occupiamo di musica del presente e del futuro, come una realtà però che vuole anche avere un carattere istituzionale, ma se possibile non nella formalità che ci ammazza. L'immagine, anche in questo caso sì. Abbiamo la leggerezza, non credo. Perché no? Anche la leggerezza, cercare di rendere più leggere le cose di cui ci occupiamo, lasciarle anche scivolare, perché tante volte ti fai quasi del male da un punto di vista lavorativo per cercare di far rendere una cosa, di trasformarla, di presentarla in un certo modo, però poi ci vuole anche il distacco necessario. E poi mi sono immaginato, tutto uscito per caso, studio Massimo Golfieri, Concetta Nasone, questa penna bianca indica anche, se vuoi, una purezza nello scrivere qualcosa, a me ha dato quell'idea. Che vuol cercare di andare oltre quelle che sono le convenzioni, che anche queste sono un limite che ci dobbiamo scrollare di dosso. C'è importante la regola, l'educazione, il senso civico, ma queste convenzioni che ci ingessano non vanno bene. Questa edizione potrebbe avere questo come fili conduttori, anche se i fili conduttori sono abbastanza sfrangiati positivamente all'interno della rassegna, però trovarci una parola? Una parola non basta. Una parola è quella che ho scritto appena ci siamo insediati in questo spazio, che è ricerca e rinascimento. La ricerca nel suo farsi produce e diventa rinascimento. Perché tu in qualche modo, quando cerchi qualcosa, che sia una cosa d'arte, che sia una ricetta di cucina, e scopri qualcosa, si risveglia qualcosa dentro, è come una rinascita, ed è qualcosa di cui abbiamo molto bisogno, nel clima così consumato, distruttivo che c'è. Quindi ricerca e rinascimento. Come si riesce in un contesto del genere, o in un lavoro, o in un percorso, o in una costante ricerca, mantenere i piedi per terra? Radicarsi, direbbe. Sì, radicarsi. Direbbe qualcuno che si occupa di queste cose. Io devo dire che mi hanno sempre detto, metti i piedi per terra, non sei nella realtà. In parte è vero, sai, perché sogno, nel senso stretto della parola, non nel senso dell'evanescenza, però sono molto concreto. Me lo devo ricordare, perché 15 anni qui, con quello che abbiamo fatto, questa è concretezza. E mi capita raramente di trovare esperienze quando vai nei teatri più importanti, grossi, tutto quanto, considerando che noi eravamo in pochissimi, eravamo in tre quando siamo partiti, sì. Più tutti i collaboratori fondamentali, mai dimenticarsi di chi viene una tantum, lavora un mese con te e riesce a farti fare determinate cose, però è una cosa abbastanza rara. Sì, quindi molto, questa concretezza, è per quello. Questa concretezza vuol dire anche avere i piedi per terra. Però. Sognare concretamente. Sì, sì. E questo è un segreto. E rendere il sogno parte della realtà. Farlo mantenere sogno, sì. Ma essere sogno sì. Concreto. Sì. Ok, grazie Massimo. Grazie a te. Grazie di cuore. Ciao Radio, ciao a tutti.